Sento il tuo profumo un po' più forte nell'abisso della sera. Lo sento ancora intriso nei miei vestiti, per te non esisto più. Ieri è lontano anni luce, come ormai un'ombra su di me. Ho anche tentato di scomparire, tanto non mi dimenticherai. Stesso giorno, stessa ora, stessa vita, proprio come allora. Le parole spese male e i giuramenti addio, e tutti quei momenti da ricordare, le cose fatte insieme. Credevo di essere molto speciale, come se non lo fossi stato mai, ma il tempo cura ogni ferita, tranne quelle che mi hai fatto tu. Stesso giorno, stessa ora, stessa vita, proprio come allora. Stesso sangue, stesse vene, questo è lo stesso cuore ancora. Totalmente privo di equilibrio sono qua, cammino barcollando tra finzione e realtà. Spengo poi riaccendo la memoria e cerco te, persa dentro ad archi di tristezza cerchi me. E credi che sia tutto ok, credi che sia tutto ok, credi che sia tutto ok, credi che sia tutto ok. Stesso giorno, stessa ora, stessa vita, proprio come allora. Stesso sangue, stesse vene, questo è lo stesso cuore ancora. Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca microfono, e lo ricordo, stasera ospiti Viaggio Segreto. Con voi e con loro ascolteremo 6 brani del CD2, come il primo che è andato in onda. Titolo? Lo stesso cuore. La vostra... Dimmi. Volevi dire qualcosa? No, no, volevo dire qualcosa di questa canzone, che è la prima canzone dell'album, di 2, il nostro ultimo album. Ed è anche il singolo, quello che uscirà come singolo di questo disco. Credo rappresenti perfettamente il nuovo corso di Viaggio Segreto, pur dando una continuità a quella che è stata la musica che abbiamo sempre suonato. La vostra esperienza durante le registrazioni e quali sono le linee guida che hanno tracciato questo nuovo CD dopo tanti anni? Ma le linee guida sono state molteplici in realtà, perché le canzoni non sono state scritte tutte quante in un unico momento, ma sono state scritte a scaglioni. A scaglioni, sì, ma poi anche ci sono alcune canzoni che sono state scritte addirittura nel 96-97, quindi diciamo che quando abbiamo deciso di scrivere questo disco abbiamo sì prodotto alcuni brani inediti, nel senso che non erano mai stati pubblicati in nessun disco, ma abbiamo pensato anche di rispolverare canzoni che abbiamo scritto anni fa, che però non avevano mai trovato una loro collocazione nella nostra produzione discografica. E quindi è stato bello anche ritrovare queste canzoni che avevamo anche un po' dimenticato. Le abbiamo tirate fuori, le abbiamo riarrangiate, le abbiamo riascoltate. Ci sono ancora piaciute esattamente come ci piacevano tanti anni fa. Buono. E le abbiamo trovate ancora abbastanza moderne secondo noi. Altre invece magari no, risentivano anche degli anni, risentivano... Però certe canzoni sì, e quindi abbiamo pensato di reinserirle nel disco. Per questo ti dico che è un disco abbastanza eterogeneo, quindi le canzoni tendono a diversificarsi molto sia negli arrangiamenti che nei contenuti. La prossima canzone per i nostri ascoltatori. Questa canzone qui la annuncio io? Vuoi annunciarla tu? No, pensavo volessi annunciarla tu come prima. No, l'annuncio io, allora la prossima canzone è Il peggio di me. Più mi davi per morto, invece guardami adesso. E davanti ad uno specchio io posso restare adesso che i miei occhi ora vedo una luce in cui credo. Ho ancora addosso i tuoi segni, guarda bene ti accorgi che male non fanno più. Non mi fai più paura, ora che sei lontana. E t'hai portato con te solo il peggio di me, solo il peggio di me. Provare a stare senza te mi sembrava quasi impossibile, ma più passa il tempo più diventa normale. Appeso al buio a testa in giù, così mi avevi ridotto tu. Ma ho detto basta, ho rialzato la testa. Ho ancora addosso i tuoi segni, guarda bene ti accorgi che male non fanno più. Non mi fai più paura, ora che sei lontana. E t'hai portato con te solo il peggio di me, solo il peggio di me. Studio ancora con i Viaggio Segreto, capitolo recensioni musicali, quali le più importanti e che cosa dicono del vostro album, in particolar modo cosa i giornalisti hanno puntualizzato. Ma dunque guarda, ti dirò che fortunatamente in passato la critica non ci ha mai dato grandissime soddisfazioni. Fortunatamente di questo disco invece abbiamo avuto ottimi riscontri sui giornali locali che hanno preferito, e questa cosa ci ha fatto molto piacere, prima ascoltare bene il disco e poi recensirlo piuttosto che fare un articolo semplicemente di presentazione. E quindi sia, diciamo, e sia i giornali che il sito di Rovigo Oggi che alcune radio locali ci hanno dato, direi, una buona soddisfazione, nel senso che hanno parlato bene del nostro disco, hanno riscontrato una particolare cura per una band che si è autoprodotta negli arrangiamenti, nella cura dei suoni, nella ricerca, ecco, della pulizia dei suoni e la ricerca del sound, che difficilmente, insomma, hanno detto, si riscontra in un gruppo autoprodotto. Io ricordo sempre che così magari uno acquista il disco, se lo scarica o fa quello che vuole, e non sa che dietro questo disco c'è tanto lavoro, ci sono tanti sacrifici, ci sono tante prove e ci sono anche tanti soldi, perché autoprodurselo costa. Prossima canzone? Ah, la prossima canzone è una canzone che presento molto molto volentieri, è una nostra vecchia canzone che abbiamo preso, rigirato e stravolto da una versione rock a una versione molto più acustica. Abbiamo avuto la soddisfazione di inciderla e farcela arrangiare da un musicista di spessore internazionale che si chiama Valentino Corvino, che attualmente sta lavorando in studio sul nuovo album di Vasco Rossi, per dire qualcosa. Insomma, ha lavorato con Ben Harper, ha lavorato con Renga, ha lavorato con tutti i più grandi artisti italiani, e ci ha così omaggiato di questo regalo. E abbiamo suonano in questo disco due amici, Federico Braga e Vittorio Piombo, due musicisti dell'Orchestra di Bologna, ed eccolo qua, si intitola La Medicina. Torneremo breve per la quarta parte di Rock Legends con I Viaggio Segreto, rimanete ancora su Radio RCS. Ora il freddo mi assale, le mani non sento più, la memoria è svanita, il dolore mi assale già. Amare nessuno, voglio che rimani solo tu. Non ci vuole un dottore per capire poi come andrà. Non c'è più niente da dire, tranne che rimpianto mi assale. Sei qui davanti a me. Ora mi affoggio, il buio mi circonda già. Le mie orecchie sono sorde alle parole che sussurrerai. La medicina che ho preso mi ha lasciato un gusto strano in bocca. È l'amaro della fine che mi soggiogherà. Non c'è più niente da fare, tranne cominciare a pregare. Sei qui davanti a me, sei qui. No, davanti a me. Che ho finito tutte le battute di questo film che ho visto un milione di volte, e che il mio cuore e la mia mente non sono più in sintonia, e che il mio spirito volteggia già sopra di noi. Non c'è più niente da fare, tranne cominciare a pregare. Sei qui davanti a me, sei qui, davanti a me.